La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino in diretta alle 16.32 primi, anzi 33 primi, vi saluta, quindi gli studi di Radio 24 di Milano, vi ringrazio di essere in ascolto. Fin da adesso vi ricorda che da domani mattina ricomincia anche la programmazione invernale del sabato e della domenica di Radio 24, quindi dalle 10 alle 12 domani appuntamento in diretta con i Conti della Belva, con me, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, un sabato mattina in diretta dalle 10 alle 12 per graffiare un pochino, per così dire, rispetto ai luoghi comuni dell'economia e non solo dell'economia. Domani dalle 10 alle 12, mi raccomando, siateci. Ma andiamo invece all'argomento della giornata, per consentirvi di telefonare all'800 24 0024, gli sms 349 238 6666. È un'ideale continuazione della puntata di ieri, perché ieri, ricorderete, ci siamo occupati della leggina votata in Parlamento da tutti i partiti con il no dei 5 Stelle e l'astensione di SEL, per prendersi comunque la quota di contributo pubblico nelle more del passaggio al 2017, alla fine del finanziamento pubblico e al passaggio pieno del finanziamento ai privati. Ci siamo occupati della leggina con cui i partiti se le sono prese e messe in tasca comunque, malgrado, lo abbiamo ascoltato e lo abbiamo commentato, non ci fossero state le previste dalla legge verifiche sui rendiconti dei partiti, perché la commissione non era stata in grado di farlo. Abbiamo sentito l'opinione favorevole dell'onorevole del PD Boccadutri, che è stato relatore di quella legge, e il commento di Raffaele Tinti, nel quale io mi sono immedesimato, perché sono convinto che sia stata una schifezza. Seconda parte del ragionamento. Oggi, grazie a un bravissimo collega che ha spulciato i bilanci del 2014, ci occupiamo di quello che nei contributi privati, questa volta non della rata di contributi pubblici che si continuerà a dare fino al 2017 ai partiti, non funziona. Che cosa non funziona? Sentiremo quanti soldi, quanti milioni nei contributi dai privati ai partiti restano ignoti, e la domanda che vi fa, e sentiremo il perché, che è un perché un po' singolare sul quale io non sono d'accordo. Vi ricordo che per esempio negli Stati Uniti qualunque contributo elettorale superiore ai $50 in un paese dove girano centinaia di milioni di dollari alle elezioni, troppi, ma un contributo elettorale superiore ai $50 va documentato e diventa pubblico. Da noi capirete perché milioni di euro invece vanno dai privati ai partiti, ma restano a opera di ignoti, per privacy, ecco. E allora prima ci facciamo spiegare i numeri e il perché da chi si è andato a spulciare giustamente i bilanci del partito 2014, e oggi ha scritto un bel articolo su Libero, rilanciato anche da Dago Spia, in cui ci dà l'idea di quanti milioni entrano e non sappiamo da chi ai partiti. Ma voi, chiedo, siete d'accordo? La privacy deve valere nei contributi ai partiti dei privati? Ma io dico di no, però naturalmente mi sbaglio. E poi chiederemo anche a all'ex garante della privacy se lui è d'accordo con quello che consente ai partiti, quindi, di raccogliere soldi senza dirci chi glieli dà, e quindi senza farci capire se poi leggi nascono perché ci sono dei donatori interessati, no? Io sono per il sostegno finanziario dei privati, ma sono per la piena trasparenza. Allora, innanzitutto è con noi, e lo ringrazio, Franco Becchis, vice direttore di Libero, che stamattina appunto ha scritto questo articolo. Grazie Franco di essere con noi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, i numeri, facci capire nei bilanci quanti sono i contributi 2014 dei partiti, quanti sono i soldi dei privati e di quanti non sappiamo niente. Allora, sostanzialmente sono 21 milioni di euro i fondi privati, esclusi tesseramenti, che anche quelli sono fondi privati, ma sono comprare la tessera. E di questi un terzo, cioè quasi 7 milioni, 6 milioni 999 mila, sono ignoti, cioè sono contributi che non hanno il donatore indicato. Questo è possibile per la prima volta dal 2014, perché fino al 2014 valevano altre regole. È stata fatta una nuova legge che un po' grottescamente si chiama legge per la trasparenza dei bilanci dei partiti, che in realtà ha nascosto una parte dei contributi privati. L'ha nascosta perché ha consentito, anzi ha inserito rivelare il proprio nome, facendosi scudo, nel caso in cui non lo rivelasse, con la legge sulla privacy. In questo modo, certo, dipende dai donatori, ma c'è una parte consistente, per ora una parte che è un terzo, ma è un terzo perché la legge è entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2014, quindi non ha riguardato manco tutto l'anno, e nel 2015 sarà invece ad anno pieno. Questo non era mai stato possibile nemmeno nella Prima Repubblica in Italia, perché le leggi c'erano, poi si violavano, ed è un altro paio di maniche, ma la norma generale diceva che la trasparenza è un bene fondamentale della democrazia, non a caso in tutti gli altri paesi d'Europa, non solo negli Stati Uniti, c'è l'obbligo di rivelare al di sopra di una certa cifra, che per alcuni è 1000 euro, per altri è 3000 euro, per gli Stati Uniti 50 dollari, ma quello diciamo è opinabile, ma al di sopra di quello, cioè di quello che viene considerato una donazione non significativa, non in grado di condizionare anche le politiche di un partito, c'è l'obbligo di trasparenza. In Francia addirittura devono scrivere l'indirizzo del donatore, non soltanto nome e cognome, in maniera che non si possa nemmeno fraintendere per casi di omonimia chi sia stato o chi non sia stato. È un prezzo che per la democrazia, la legge sulla privacy magari esiste, però basterebbe fare una norma che dice che chi vuole, chi ci tiene alla privacy, non può donare fondi ai partiti, e i partiti non possono accettare dei fondi anonimi, perché altrimenti diventano delle società segrete, non la casa di vetro della democrazia. Anche perché se poi la percentuale è un terzo in un anno come il 2014, in cui c'erano sì le europee ma non le elezioni politiche, sotto elezioni politiche è gioco forza immaginare che a quel punto, per il gioco degli interessi che ovviamente entrano in campo di fronte alle elezioni politiche, la percentuale sul totale delle donazioni degli anonimi non trasparente diventi più elevata, non sei d'accordo? Beh, è probabile di sì, e poi magari non era così nota, perché diciamo anche durante la discussione della legge non è che ne abbiano discusso molto di questa norma che hanno inserito, quindi forse tesoriere, man mano che incontrava qualcuno, diceva: beh, se non vuoi far sapere il tuo nome, possiamo usare la legge sulla privacy, che finora non era possibile utilizzare. Credo anch'io, credo che sia un regalo grande anche a tutti i gruppi lobbistici che possono far arrivare un finanziamento a un partito mantenendolo anonimo, e poi magari c'è qualche buon partito o un uomo politico, poi si vedrà che quell'uomo politico o quel partito magari ha un comportamento parlamentare sulla tal legge o sull'altra abbastanza corrispondente all'identità del suo finanziatore. Per questo è importante sapere i finanziatori, anche perché poi si capisce. Io posso, in America lo so prima, so che quello è finanziato, non so, dalle industrie delle armi, e quando voto so che sto votando uno che farà gli interessi dell'industria delle armi, e quindi magari avrà certe scelte piuttosto che altre di politica estera, ma lo so prima, questo è uno dei cardini della democrazia, poter conoscere poi per decidere, e togliere questo cardine secondo me è un bonus molto grande alla democrazia italiana. Allora io devo rispondere a un ascoltatore che mi dice: no, ma come, citi gli Stati Uniti come esempio di trasparenza, gli Stati Uniti i soldi privati comprano la politica e così via. Proprio perché negli Stati Uniti da decenni e decenni, nella storia della democrazia delle elezioni americane, il ruolo giocato dal denaro privato, ricordo tutti per esempio che per le elezioni presidenziali c'è la possibilità di avvalersi di un fondo pubblico, che però è così limitato che quasi praticamente nessuno dei candidati se ne avvale, anche perché a quel punto c'è l'obbligo di rinunzia ai soldi dei privati. Ma in quel caso le norme, innanzitutto sono tante, distinguono dai tipi di soggetti che possono dare i soldi, stabilendo dei tetti per ogni tipo diverso di elezione, quelle di Stato, di Contea, dei rispettivi corpi legislativi, distinguendo i soggetti e i loro relativi obblighi per ogni tipo di elezione, e distinguendo anche il tipo di spesa, quello che si chiama soft money, che è quello che si dà per esempio ai partiti ordinari distinti dalle spese elettorali, ha un tetto. Quello che si dà per le elezioni si distingue in due categorie diverse, c'è l'advocacy diretta, che sono spese per attività di sostegno elettorale fatte dando un contributo direttamente al candidato o al suo comitato, dalle indirette, che sono invece le maniere preferite dalle grandi aziende e dalle lobby, perché ci si organizza con dei propri PACs, si chiamano Political Action Committees, che fanno campagne, per esempio fanno degli spot, li pagano direttamente. In quel caso i limiti sono più elevati perché non li si dà direttamente al candidato. Però la verità è che ogni presidente aggiorna queste norme, però lì sono norme diverse per chi è iscritto nel registro federale e statale delle lobby, perché lì c'è un registro federale con norme ad hoc per i lobbisti, da chi non è iscritto. Noi non abbiamo niente di tutto questo, e quando abbiamo fatto la riforma, che è vero è avvenuta maggioranza sotto il governo Letta, ma è stata emanata quando c'era già Renzi, la verità è che abbiamo messo in questa riforma un tetto per l'obbligo di pubblicità che è di 5.000 euro, cioè elevato, ripeto, fate il conto con $50 o comunque con tetti più bassi negli altri paesi europei, ma siamo gli unici che hanno questa storia di aver riconosciuto la privacy. E francamente chiedo a Bechis, chi è che, di quello che hai visto nelle cifre dei diversi bilanci dei partiti, chi è che ha le quote più elevate innanzitutto di donatori privati? Quanti di quelle quote in ciascun partito sono meno dichiarate rispetto ad altri? Beh, allora, sostanzialmente quello che ce l'ha più elevata percentualmente è il Nuovo Centrodestra, perché non rivela l'identità di nessuno dei suoi finanziatori. Di nessuno. Ho avanzato nell'articolo l'ipotesi che il Nuovo Centrodestra, partito appena nato, sia un po' pasticcione, diciamo, è un'ipotesi fondata sul fatto che, grazie al fatto che il tesoriere non conoscesse le norme, si è dimenticato di far domanda per la ripartizione del 2 per 1000 e loro ne sono rimasti esclusi per un motivo burocratico. Non molto svegli, insomma, non molto svegli. Ecco, può essere che anche non conoscessero la legge che dovevano allegarli al bilancio e che quindi, diciamo, sia stata una dimenticanza, ma in nessuno delle formule possibili, cioè sul sito del proprio partito, allegata al bilancio annuale, la pubblicità è stata data. Quindi il Nuovo Centrodestra ha circa 1.300.000 e 1.300.000 sono tutti anonimi. Il PD? Il PD, che non a caso sono i primi due, sono i due partiti di governo, e il Partito Democratico ha 3.300.000, che è la cifra assolutamente più alta, segreta, su circa 11.000.000. Anche qui siamo intorno a un terzo dei fondi, quindi più o meno è nella media. È nella media, però naturalmente. Poi c'è la Lega Nord, che anche loro hanno cifre più basse, circa 1.200.000, ma anche loro sono in questa situazione. Poi Forza Italia e altri partiti che hanno talmente. Quindi, come vedete, tutti alla fine hanno una cifra non al di sotto della media, ma insomma è abbastanza elevata, di cui non sapremo i denatori. Voi siete d'accordo, cari ascoltatori? Vabbè, adesso ci fermiamo per un minuto di informazione sulle strade e poi torniamo con le vostre opinioni. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Io devo dire che molti ascoltatori protestano anche contro la nuova sigla, e però protestavate anche contro quella dei Doors, che io avrei tenuto. Però abbiamo fatto un patto e vedremo adesso. Aspettiamo la prossima release, il terzo trimestre dell'Istat. Vediamo come va l'Italia e a quel punto la cambiamo di nuovo. Facciamo di nuovo una gara tra tutti voi, facendo vincere quella più segnalata. Allora, stiamo parlando di ciò che risulta evidente dando un occhio alle rendicontazioni finanziarie dei partiti 2014, e cioè che siamo in presenza di almeno un terzo delle donazioni private che, ripeto, dal 2017 in poi diventano l'unico pilastro, sempre che non ricambino e rimettano al finanziamento pubblico, perché io lascio questa finestra aperta, perché figuriamoci se i partiti non ci riproveranno. L'unico pilastro resta quello del finanziamento privato, ma ecco qua che esce fuori una caratteristica nuova mala delle donazioni private secondo la nuova legge approvata all'inizio dell'anno scorso in Italia, e cioè per privacy basta che il donatore dica no, pur avendo posto un obbligo di rendicazione da una cifra superiore a quella di tutti gli altri paesi avanzati, e no, a quel punto la privacy non si viene a sapere chi lo dà. Nella media sono oltre 7 milioni sugli oltre 21 milioni di donazioni private dai rendiconti ai partiti del 2014, secondo la cifra che è andato a controllare Franco Becchi, il vice direttore di Libero, che è con noi. A abbiamo anche visto quali sono i partiti che non dichiarano. Alcuni ascoltatori, Franco, mi chiedono se c'è un fenomeno analogo anche nel bilancio del Movimento 5 Stelle, ma questa domanda è un po' naif, per così dire. Comunque te la faccio consentendoti di rispondere. Allora, il bilancio del Movimento 5 Stelle non c'è, perché non ha obbligo di presentazione, non prendendo dei fondi pubblici. Il bilancio che conosciamo del Movimento 5 Stelle è, sono i bilanci diciamo legati agli organi istituzionali, cioè del gruppo parlamentare alla Camera, del gruppo parlamentare al Senato, dei gruppi in Consiglio regionale, perché ricevendo i fondi dei gruppi, che sono fondi pubblici, li devono rendicontare. In quei bilanci lì non hanno contributi privati. Esatto, le cose stanno così, e anzi un argomento polemico dei partiti che ieri si è rafforzato dopo le polemiche del voto della regina in Parlamento per prendersi i contributi pubblici senza le verifiche previste dalla legge sui loro bilanci, trovate oggi sui social molti parlamentari, diversi parlamentari del PD e di maggioranza che dicono 5 Stelle non ci possono fare lezione perché il loro bilancio non ce lo danno, non si capisce niente, non hanno uno statuto, eccetera eccetera eccetera. Sta di fatto che intanto dei partiti che invece accedono al finanziamento pubblico e presentano il bilancio, questa norma consente loro di rimanere molto opachi. Alcuni continuano a dirmi sì, però ci sono altri obblighi nella legge. Guardate che vi sono paesi europei che addirittura prevedono la carcerazione come ipotesi penale per chi prende contributi senza dichiararlo, per essere precisi. Un altro esempio, in Germania quando uno dei partiti ottiene una donazione superiore ai 50.000 euro deve comunicarlo entro 24 ore alla presidenza del Bundestag, che la pubblica immediatamente in un atto parlamentare. Questo per darvi l'idea di come funziona la trasparenza altrove, e mi sembrano tutte cose molto comprensibili, perché io sono per i soldi dei privati nei partiti, però deve essere tutto chiaro e preciso, cioè bisogna sapere chi paga chi, e anche perché a quel punto la politica deve rispondere se fa leggi ad personam o ad aziendam oppure no. Quanto poi, un altro mi dice, ci sono i limiti per 100.000 euro massimo. Guardate che per un grande gruppo che ha X società, aggirare il limite dei 100.000 euro di donazioni in campagna elettorale è la cosa più facile del mondo, se mi permettete. Ecco, quindi da questo punto di vista non mi sento molto tutelato, per così dire. Allora, qualche opinione di ascoltatore, poi li facciamo commentare a Franco Becchis, che resta con noi, perché nel frattempo Franco Pizzetti, l'ex garante della privacy, a cui volevo fare la domanda, ci ha detto che ha un problema, quindi non sa se riesce a rispondere al telefono. Ma intanto cominciamo con l'opinione di Silvano da Cremona. Ti piace questo anonimato, Silvano? No, perché vabbè, io non lo sapevo, non ero al corrente della cosa, ma io quando faccio un'operazione, ad esempio bancaria, al giorno d'oggi che è tutto tracciabile, della privacy se ne sbattono tutti. E che c'entra? Tu sei un potenziale evasore come chiunque di noi. I partiti sono al di sopra di questi sospetti. Però io spendo, non lo so, 300 euro che devo fare un regalo a qualcuno, devo fare un acquisto via internet, via con l'IBAN e tutto, si sa quello che ho fatto in quel giorno. Esattamente, lì. Giorno d'oggi non si può neanche andare a visitare una cassetta per mettere via qualcosa per paura che che ti rubino qualcosa i ladri. Loro lo sanno che tu hai visitato la tua cassetta. Lo so, no? Silvano, lo so. Quindi cambiarla la legge, dice Silvano. Gianmarco da Siena, come la pensa? Buonasera. In parte avete già risposto alla mia prima domanda, che era quella appunto del Movimento 5 Stelle, se potesse prendeva o meno questo finanziamento. Poi quello che mi turba molto è che tutte le leggi che vengono fatte, tutte le delibere e quant'altro, non solo dell'ultimo governo ma di quelli precedenti, non eletti, sono tutti per fare sempre meno chiarezza possibile, per dare sempre più fumo negli occhi, tante annunciazioni, tante chiacchiere, e poi si restringe sempre la possibilità di capire, di vedere, di avere dei dati. Ecco, questo è l'enorme problema sul quale diciamo dovremmo fare chiarezza in qualche modo. Eppure il Presidente del Consiglio, torno a dire, e come giustamente sottolinea anche Franco Becchis nel suo articolo stamattina sul Libero, che si è intestato questa riforma, che in realtà era stata approvata e definita nella legislatura precedente ma emanata quando lui era già in carica, molto fieramente ha detto: questa è la norma sulla trasparenza dei fondi dei partiti. Trasparenza di che? Cioè, in Spagna, torno a fare un altro esempio, perché io poi naturalmente, avendo dovuto alle ultime elezioni confrontarmi con gli obblighi di rendicontazione, mi ero andato a fare un bel dossierino. In Spagna è obbligatorio identificare chiunque doni a un partito più di 300 euro. Ecco, questo per darvi l'idea di come funziona altrove. Ecco, non è che il Parlamento non lo sapesse che funziona così da tutte le altre parti, e che vi hanno ammannito una riforma che di trasparente ha ben poco. Ma la domanda che faccio a Franco Bechis, che spulcia documenti da molti anni ed è una delle sue specialità, che è un osservatore della politica anche da parecchi anni: c'è qualche chance, secondo te, delle due l'una, o che i partiti reintervengano perché vedono che i soldi che gli arrivano dai privati, pur essendo i dati recenti del 2 per 1000 meno avari di quelli che erano usciti a ottobre sull'anno 2012, ma secondo te riapriranno in questa legislatura la possibilità di ribeccarsi altri soldi pubblici, o c'è qualche chance che possano modificare, secondo te, in senso più trasparente, il difetto enorme di cui ci stiamo occupando oggi? Te l'aspetti? No, non me l'aspetto, nel senso che la presenza abbastanza chiassosa e robusta del Movimento 5 Stelle nel Parlamento rende un po' difficile fare sotto banco le cose che normalmente facevano i tesorieri del partito. Ecco, quindi escludiamo una leggina che dice anche dopo il 2017 ci pigliamo i soldi pubblici. E vabbè, questo è già abbastanza. Ma sulla trasparenza? Sulla trasparenza avevano un'occasione d'oro, perché si sono messi a fare questa leggina per chiudere un occhio su una cosa che si erano imposti loro, cioè il controllo della contabilità. La chance era ieri, infatti, l'altro ieri. L'altro ieri, questa leggina adesso va al Senato, è già arrivata perché è stata approvata l'altro ieri. E noi da giornalisti battiamoci perché in Senato qualcuno approfitti della leggina con cui si pigliano i soldi senza controlli per modificare questo anonimato, che è una totale zoppia della democrazia italiana. Io ringrazio Franco Becchi, tutti voi ascoltatori, e mi raccomando, domani dalle 10 alle 12 i Conti della Belva con me, Carlo Alberto, Cannavale Maffè, Mario Seminerio e il grande Cifarelli, domani dalle 10 alle 12, intanto continuate con Radio 24.